Garibaldi fu ferito di una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da gennaio a giugno del 1847. Carestia ancora drammatica, la situazione in Irlanda, tumulti per il cibo anche in Italia. Prime riforme da Pio IX, il Papa allenta la stretta della censura, record di consensi. Flop a Firenze per il Macbeth di Verdi, la Scala si inchina al talento di Fanny Elsler. Una buona giornata da Simone Spezia, dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. È ancora difficile la situazione in Irlanda, dove la carestia si è aggiunta a un'epidemia di tifo che ha raggiunto le principali città, Belfast e Dublino, e un inverno particolarmente freddo. Anche in questo inizio d'anno le vittime si contano a migliaia. I programmi di aiuto stanno funzionando poco. Nonostante il governo inglese dia lavoro al momento a 750.000 persone, la cosa non funziona e sembrano avere più efficacia le organizzazioni religiose e non governative. Ma non è solo l'Irlanda ad essere colpita dalla carestia, si segnalano sempre maggiori difficoltà nell'Italia settentrionale e centrale. I prezzi degli alimentari sono in forte crescita, ci sono stati tumulti anche in Lombardia, dove i contadini hanno bloccato barche e carri carichi di grano. In Toscana il prezzo del grano è salito a 30 lire il sacco, ma Leopoldo I ne ha fatti arrivare 1.100.000 dall'estero. Il problema si è risolto. In questo quadro lo Stato Pontificio sta vivendo una fase importante con Pio IX che si ritaglia un ruolo da riformatore. Molti, anche in Toscana, lo guardano con interesse. Un divo. Non era mai accaduto in questa misura, in questa proporzione. Pio IX nel giro di un anno è diventato probabilmente l'uomo più osannato d'Italia. E quanto all'Europa, anche se non ci sono sondaggi ufficiali, le indicazioni degli esperti dicono che il gradimento del pontefice supera quello di molti sovrani. La causa di tanto amore? Le riforme invocate da anni e ora, seppur timidamente, introdotte, ogni volta con un'accoglienza popolare eccezionale. Certo, il pontefice sa di dover cambiare molto, ma da qui a considerarlo un liberale ce ne corre. Tuttavia la vox populi è più forte, e poi liberali e democratici cavalcano l'onda di un papa innovatore. Infine c'è l'atteggiamento dello stesso pontefice. Papa Mastai vuole piacere. Già lo scorso novembre, di fronte al silenzio opposto dai romani al suo passaggio per protestare contro l'assenza di altre innovazioni dopo l'amnistia, Pio IX aveva deciso di fare alcune concessioni, tra cui la ferrovia. A gennaio si è parlato di luce a gas. Un'altra svolta si è avuta a marzo, la riforma amministrativa della censura, che ha ridotto i controlli. I romani l'hanno ritenuta blanda, ma hanno dato la colpa al segretario di Stato Gizzi. Grande successo invece per la Consulta, organo di laici che deve dare un parere sugli affari di Stato. Massimo D'Azeglio, che ha incontrato il pontefice, ci ha messo del suo. Ha fatto trapelare che quando lui gli ha parlato male dell'Austria, Pio IX ha accennato a un sorriso. Gli italiani, di conseguenza, impazziscono. A Lucca hanno celebrato una messa per l'anniversario della sua elezione al soglio pontificio, che il duca Carlo Lodovico ha accettato senza entusiasmo. In Toscana, invece, persino il governo segue l'onda. Il granduca ha dato il suo assenso a una legge liberale sulla stampa e i giornali si sono moltiplicati. Il barone Bettino Ricasoli dirige La Patria. Giuseppe Montanelli, il più passionale, l'Italia. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Trovandosi al cospetto di Giuseppe Verdi, nemmeno i critici hanno il coraggio di dirlo ad alta voce, ma l'ultima opera del maestro sembra essere stata un vero e proprio flop, pur bella, come sentite in sottofondo. Il Macbeth è andato in scena alla Pergola di Firenze e curato maniacalmente dallo stesso Verdi, non è piaciuto al pubblico, che ha applaudito solo timidamente. E questi applausi quindi non sono quelli per Verdi, ma sono quelli della Scala di Milano, che è letteralmente venuta giù per l'interpretazione della ballerina austriaca Fanny Elsler sul palco per La figlia del bandito di Perrault. Persino il maresciallo Radeschi ha voluto assistere all'esibizione a Milano, sottraendosi alle sue ferree regole che impongono all'ufficiale ottantenne di andare a letto presto, visto che si alza alle 5 tutte le mattine. È tutto, sul nostro sito potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, visitate il nostro blog, la nostra pagina Facebook, lasciateci un commento o fatelo prendendo penna e calamaio elettronici. L'indirizzo è sempre quello, gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.